Signore e signori, bentornate e bentornati ad Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021, un percorso di pillole quotidiane attraverso le canzoni che prendono parte al più importante e famoso concorso televisivo di canzoni di tutta Europa e forse di tutto il mondo, chissà. 180 milioni di spettatori, 195 milioni di spettatori, questi dati delle ultime edizioni. Sono 39 le canzoni divise in due semifinali che qualificano i 20 paesi che si aggiungono ai 6 qualificati di diritto e li raggiungono nella finale del 22 maggio in programma a Rotterdam. Stiamo passando in rassegna le canzoni che partecipano alla prima semifinale. Adesso è il turno della Croazia e Albina ci canta una canzone dedicata a un social network cinese. Infatti il titolo è TikTok. Tried to fix the broken pieces, now I'm leaving. But you made it loud and clear, I'm not enough. Try to fool me more than once to keep me dreaming. Cause you knew the truth will tear us apart. If you pull me down, then I'll come around and rise up to come show you who I am. I feel fire inside, my heart's desire. I'm breaking free from you. Tick tock, watch the days go. I'm losing track of time, lost in your play zone. Don't overcomplicate now, we're in war zone. You're screaming, oh no. Albina si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2015 con la partecipazione alla seconda edizione di X Factor Adria, che era la versione balcanica dell'ex Jugoslavia di X Factor. Dopo aver superato le audizioni, la produzione ha deciso di formare un gruppo femminile, ma lei ha detto di no, che voleva fare la cantante solista. Ha provato quindi nel 2019 a prendere parte alla terza edizione di The Voice Croazia, e invece è arrivata terza nel Sanremo croato, che si chiama Dora, il 13 febbraio 2021, ha vinto il biglietto per Rotterdam. La Croazia infatti non ha confermato il proprio campione, selezionato già per l'edizione annullata nel 2020. Grande metà. No, la canzone non è dedicata a un social network cinese, è una grande storia d'amore che attraversa il tempo, il tic-tac e l'orologio. Lei pronuncia con un accento un po' calabrese, senti, tic-tac. Aspira molto questa T. E chi ha visto la selezione nazionale croata dice che Albina probabilmente inciamperà su una non perfetta resa vocale. Chissà se i coristi di supporto riusciranno ad aiutarla. Tic-tac, prieme curi, tiesi više usne, grizem sama. Jedva dišem, tic-tac, prieme juri, ne mogu više. Tic-tac, il tempo passa, dove sei? Mi mordo le labbra, riesco a malapena a respirare. Tic-tac, il tempo vola, non ce la faccio più. C'era anche una canzone dell'Ucraina nel 2014 che si chiamava Tic-tac. E tutti ricordano perché c'era un uomo che simboleggiava lo scorrere del tempo correndo in una grande ruota da criceto. C'era anche una canzone di Flavio Fortunato, il cui ritornello faceva tic-tac, tic-tac. Era il 1983 al Festival di Sanremo, ci sono anche delle caramelle alla menta. La canzone si chiama Tic-tac ed era Albina per la Croazia. Nel mese di maggio l'arrivo delle nuove aringhe è un evento che si festeggia in tutti i Paesi Bassi. Troverete venditori di aringhe ovunque, cercate i cartelli con la scritta Haring o Hollands Nieuwe. La vista di un olandese che prende una aringa cruda per la coda e se la mangia intera, per fortuna senza testa, non manca mai di far rabbrividire chi per la prima volta visita i Paesi Bassi, ma gli olandesi amano molto questa prelibatezza. Se un pesce intero è troppo per il vostro stomaco, tagliatelo a pezzetti e accompagnatelo con cipolle e sottaceti. Un'altra specialità molto amata è la drop, che non è la divisa militare alternativa alla divisa da combattimento o mimetica, ma una caramella composta da gomma arabica e radici di liquirizia, gommosa e appiccicosa al tempo stesso, che fa impazzire gli olandesi, consumatori di 30 milioni di chili di drop all'anno. Il suo gusto amarognolo ricorda quello di certi sciroppi per l'infanzia, ma insomma io preferisco le aringhe con la cipolla, quelli sono un gusto forte e da uomo, un gusto adulto, adatto ai vostri weekend romantici. Dopo questa carrellata di specialità gastronomica olandese è venuto il momento di tornare all'Eurovision con la canzone del Belgio. Arriva la nobiltà della musica mainstream, Hooverphonics. Last Night. I think I could use another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night. I got up cause I need a shot of instant remedy. I put a record on and makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip, that's why. I ignored you for a long, long time, but then you had the best opening line. La loro formazione consiste nel bassista Alex Callier, nel chitarrista Raymond Gertz e in una cantante che cambia spesso. Hanno raggiunto il successo negli anni 90 e si sono rivelati al pubblico internazionale con la presenza nella colonna sonora del film di Bernardo Bertolucci, Io ballo da sola. All'inizio erano considerati un gruppo trip hop, poi velocemente hanno espanso il loro suono. Non può essere descritto come un solo genere, ma sicuramente electropop con un po' di rock e un misto di contaminazioni. Il loro suono tipico degli anni 90, gli anni 2000. Infatti raggiungere il successo, pensate, si sono esibiti anche all'apertura degli europei di calcio del 2000 a Bruxelles. Gli europei di calcio del 2000, la cui finale si svolse appunto a Rotterdam e ci vide soccombere, ahimè, alla Francia. Chi c'era ricorda il pareggio di Will Tort a 23 secondi dalla fine e il golden goal di Trezeguet in una finale che, ahimè, avevamo quasi portato a casa, ma sei anni dopo ci saremmo rifatti. Chissà se andrà così anche all'Eurovision. L'anno scorso erano stati selezionati con la canzone Release, dopo essere stati confermati hanno licenziato con un'email la cantante, una ragazzina del 2000, e hanno ripreso Gaike Arnert, tornando appunto ad affidarsi alla voce dei loro più grandi successi, gli Hoover Phonics Ribeggio con Last Night. Signore e signori, avete ascoltato aspettando l'Eurovision Song Contest 2021. Una carrellata quotidiana o quasi sulle 39 canzoni in rappresentanza di 39 nazioni che gareggeranno a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio prossimi venturi. Oggi abbiamo ascoltato la canzone della Croazia e la canzone del Belgio, la giovanissima Albina e i veterani Hoover Phonics. La Croazia porta in gara TikTok, una riflessione sul tempo che passa, i belgi portano in gara Last Night, una disamina sulla fine di una storia d'amore. A domani e buon pomeriggio.